Yeah. So, yeah. Program. Come on. I'm going to go to the hospital. sedia. No, Monte, siamo in Ibrato. Molto di questo, perché il problema di ieri non mai è a morire. Hanno sentito, hanno sentito io con il tempo da mai. Assenata. Sì, io voglio un po' di acqua che sta nel cielo. Oh, vuoi bere? Ok, sì, è un mini problema. Qua tranquillo, fuori. Perché c'è la... Vuoi di via, vuoi di qua? Non dai, c'è... Biribai. Oh, yeah. what you're going on. yɛkawa koma pia padam sop mame nyame adwuma na twɛ na yɛ obɛtɔm abɔsom mame me nua bi wɔ akyi ɔsɛgye nhyira no nyinaa ɛbɛka wo ne wo mma w'asefoɔ ɔsɛ awurade ne wɔ ma nyina ɛhyɛ bɔnefo ne papafoɔ na menhyira wohyɛ ɛti kwan na ho a ɔhwɛ sɛ ɔbɛka Yami Shura, one year we be with Yami Shura. One year we have Yami Adishia yada sop mami ya se Ewi ya se ya japadiye diye di mwa kochine eni onyanko pon eni masem Eno diya wa enye bi wazasi uwe suwa wa vire gu Keba giye sisi kamu he umumi ya mba mao Ibi umumi ya mba mao ya jino